Materiale rotabile e il rinnovo del contratto di servizio scaduto da 7 mesi. Maurizio Riposo, delegato sindacale. Messina-Palermo, che sono circa 230 km, che è la stessa distanza che fra la Bologna e Milano, mentre Bologna-Milano la facciamo in circa 1 ora e 40 minuti. Con i treni regionali, noi ci mettiamo col treno più veloce 2 ore e 45. Motori spenti a Borgo Panigale, FIM e FIOM bolognesi preoccupate per la possibile fuoriuscita della Ducati dal gruppo Audi Volkswagen. Per i metalmeccanici la scelta metterebbe in crisi lavoratori, aziende e territorio. In questi anni gli accordi raggiunti con la proprietà tedesca sono stati assunti come modello di riferimento a livello regionale. E cambiamo argomento nella giusta direzione. È positivo il giudizio della CGIL dopo il via libera del Senato al codice antimafia. Ci saremmo aspettati dalla politica maggiore coraggio, coerenza e rigore. Tuttavia giudichiamo i contenuti della riforma un passo importante. Questo è il commento del segretario confederale di Corso d'Italia Giuseppe Massafra, che aggiunge: c'è ancora molta strada da fare, ma adesso abbiamo uno strumento legislativo più forte che può fare la differenza. E ora gli esteri, insieme per i diritti. In Spagna migliaia di lavoratori hanno sfilato a Valencia per ottenere dal governo un recupero del valore d'acquisto delle proprie buste paga. La protesta unitaria per denunciare l'erosione di salari e tutele nei settori della manifattura e agroalimentare. Luci sul lavoro, siamo alla cultura. Da oggi all'8 luglio alla Fortezza di Montepulciano, un festival pieno di immagini, musica e parole per affrontare il tema a 360 gradi. Il servizio è di Antonia Fama. Tutto pronto per Luci sul Lavoro 2017. Torna anche quest'estate l'appuntamento ormai consueto con il festival promosso dall'Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali. La splendida cornice della Fortezza di Montepulciano ospiterà 3 giorni di dibattiti sul mondo del lavoro. Ma ci saranno soprattutto tante iniziative culturali, dall'accoglienza all'integrazione attraverso i sapori del mondo, con lo street food di Nati per Soffriggere, poi il consueto concorso di cortometraggi, il cinema con la partecipazione della scuola Anna Magnani e nella Piazza Grande invece 4 artisti di strada daranno forma al lavoro con delle opere create ad hoc. Il programma completo su www.lucisullavoro.org. Ed è tutto. Per gli approfondimenti radioarticolo1.it. Genus Bononie, musei nella città, presenta Astrid Kirchner with the Beatles. Dal 7 luglio al 9 ottobre 2017, in esclusiva italiana a Palazzo Fava, la mostra fotografica sulla band che ha cambiato la storia della musica, i Beatles. Per info e biglietti, genusbononie.it. Bienvenidos al Despacito Café, cocktaileria, cocina y música latinoamericana. A Bologna, Despacito Café, aperto a colazione, pranzo, aperitivo, cena. Y todas las noches, fiesta. Despacito Café, via Dominzoni 4/2, 051 24 77 06. Despacito Café. Te esperamos. This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, 21.09 minuti primi. Questa è This Is Not An Exit. Siamo tornati nelle nostre corde, dico bene, dottor Scarpa? Sì, buonasera a tutti e a tutti. Oggi torniamo alle 9, orario consono, insomma, per noi. L'altra volta abbiamo iniziato un po' più in ritardo, però ci sta, insomma, questi sbalzi come quelli di temperatura, anche noi di orario. E oggi 6 luglio, appunto, una assolata giornata di luglio, insomma, caldissimo, più ne metta. Noi siamo ancora qui nel chiuso del nostro studio. Per rinfrescarvi. Per rinfrescarvi e per sudare, insomma, per la missione che ci abbiamo di presentare questo gruppo davvero sconosciuto. Babbo, ogni tanto tiri fuori queste chicche. Presentali te allora. Allora, questa sera siamo in compagnia di Distorted Pony. Effettivamente non penso siano neanche mai venuti a suonare in Italia, non ho idea. Pochissime copie hanno venduto, sembra che... cioè, mi sembra il classico gruppo che facesse di tutto per non farsi conoscere, ma ne parleremo diffusamente. We'll be right back. dicevamo, Distorted Pony, prima volta che li ascoltai ero già in ritardo perché non li scoprivo ovviamente in questo 1990-91. Loro si formarono addirittura nell'86. Beh, insomma, io li scoprì già dopo perché sì, non avevo mai una grande distribuzione, anche se uscivano con etichette di tutto rispetto, vero altro scarpa. Beh sì, parliamo del primo lavoro del 92, appunto, Punishment Room, e con una copertina, insomma, con una maschera sadomaso, e insomma, che fa tutto intendere. Sembra quella del, appunto, di, sì, sì. Di Pulp Fiction, se qualcuno se la ricorda. Quando appunto loro vengono sequestrati da questo... E poi bei momenti. Di questi redneck, insomma, pervertiti. E quindi la collaborazione di Steve Albini ebbe, insomma, il successo che è limitato. Insomma, in America sicuramente la critica l'incensava un bel po', anche perché poi la Bop Records è anche una fanzine, quindi... Storica dal sì. 1974. Quindi... Ci hanno inciso anche grossi nomi, sì, anche gli Stooges. E portava avanti anche il discorso con le fanzine, appunto, dei propri artisti. E i Stooges, poi Brian Jones Massacre, tanti, Deviants, Mick Farren, un sacco di gente ha suonato con ha firmato per la Bump Records. E appunto il primo lavoro del 92 con l'etichetta che abbiamo detto. E tenete conto che come tanti altri gruppi noise industrial dell'epoca ci misero anni per arrivare a un'etichetta e a pubblicare. We'll be right back. Quindi questa sera alle 21 e 21 minuti primi siamo con in Distorted Point, appunto da Los Angeles, in giro dall'86, però il primo lavoro, long play, insomma, è del 92, appunto con la Bump Records. E comunque, se attivate una ritmica dirompente per questo genere industrial, che comunque a Los Angeles non si sentiva tanto, capitale dell'heavy metal in quel periodo davvero industrial, uno pensava sicuramente alla scena europea. Infatti molti riferimenti poi vengono a quello che passava in Inghilterra, no? La scena industrial appunto della Gran Bretagna, però anche a Los Angeles evidentemente qualcuno era rimasto affascinato da questi suoni dirompenti, insomma la ritmica, con un Theo Jackson alle percussioni, doppie batterie, perché poi abbiamo anche London May, e poi David Uskovich alla chitarra e Robert Hammer alla chitarra fino al primo disco. Il secondo disco già non c'era più, lascia il gruppo. Quindi niente, questo è un gruppo davvero sconosciuto, ma come hai fatto, Babè, a conoscerli? Ma li conobbi una ventina d'anni fa, in classico, in macchina, un lettore CD in macchina, la radio CD, e fu amore a prima vista, un colpo di fulmine. Cosa sono sti suoni così violenti, aggressivi? E poi il cantato di Dora a me faceva letteralmente paura. We'll be right back. Beh, oltre a spaventarmi la voce di Dora, che la cantante e bassista, mi ricordavo anche delle atmosfere a cui avevo avuto accesso leggendo la letteratura di Lovecraft, tipo il richiamo di Cthulhu, e anche giocando al gioco di ruolo di del richiamo di Cthulhu. Un senso di orrore, di vuoto, di disperazione che in pochi altri romanzi avevo trovato. E devo dire, poi i Metallica furono ispirati da Lovecraft, un sacco di gruppi metal sono stati influenzati da Lovecraft, dal richiamo di Cthulhu, da tutto il suo immaginario, da tutta la sua mitologia. Però era diverso. Se magari i gruppi metal spingevano sul demoniaco, qua non c'era molto gore, non c'era molto sangue, insomma effetti speciali, no, qua era tutta un'evocazione, ti spaventavi proprio a sentirli e dicevi e pensavo, boh, ma questi per arrivare a cantare, perché anche i testi sono notevoli, poi ci proviamo, ma come devono stare? Just knuckle. 21 e 37 minuti primi, This Is Not An Exit, in compagnia dei Distorted Pony, gruppo losangelino fine 80 inizio 90, come di consueto da queste frequenze a giovedì sera. Gruppo sì, veramente misconosciuto. È un po' altro parallelo che feci subito, ma magari non proprio subito, insomma, comunque conoscendo abbastanza bene Lovecraft, anche Lovecraft non si rendeva conto bene delle importanze che aveva in ambito letterario. Scrisse tantissimo, ma il vero successo l'ebbe da morto. I Distorted Pony non hanno dovuto attendere tanto, ma di sicuro hanno dovuto attendere il 2010 per riunirsi, anche perché già il secondo album del 94 uscì con la band smembrata e ormai finita. D'altronde, comunicare certe emozioni, certi sentimenti, come dire, te lo selezioni bene il pubblico, appunto, un po' come faceva Lovecraft. Non era facile entrarci perché era quantomeno disturbante. We'll be right back. 21:43 minuti primi, sempre con i Distorted Pony in ascolto. Spero vi piacciono, che rimaniate in ascolto, perché diciamo che è piuttosto raro sentirli andare. E comunque, appunto, dicevo della loro normalità. Altro parallelo con Lovecraft, che era un perfetto gentiluomo di Providence, Rhode Island, di una famiglia benestante. Anche i membri originali dei Distorted Pony non erano niente di particolare, non erano dei punk o dei disadattati. Erano degli studenti dell'Università di Los Angeles, cresciuti in un sottobosco musicale, cavolo, che ha sempre avuto dagli anni Ottanta, penso a tutte le varie scene, roots, poi il metal. Beh sì, comunque loro guardavano sicuramente molto, molto oltreoceano alla scena inglese, e fanno riferimento appunto anche ai Fall, ai Birthday Party, e la New Wave, insomma, praticamente quella che passava poi in Inghilterra alla fine degli anni 70, e King of Four, insomma, e la musica industrial, Trabbing Crystal, giusto per tirarne fuori il nome più famoso. E loro Distorted Point, pure per un modo come dire, un cavallino innocente però distorto, insomma, fare questo parallelismo fra bene e male. E anche nei testi, insomma, e nelle copertine si vede che questa ambiguità, insomma, questo bene e male dell'essere umano. E quelli sono i testi, poi, alla fine, a scavare nell'intimo della mente umana, insomma. We'll be right back. What's up, OG Showtime? Sempre This Is Not An Exit, sempre con... Vabbè, questo sono i Cypress Hill, ok, l'avrete capito, ma sempre con i Distorted Pony, oggi la puntata verte interamente su di loro. Il classico gruppo che quando poi mi copiai il disco, subito, immediatamente, quando l'ho preso dalla macchina del mio amico, poi se capitava poi di finire in macchina con altri amici, guidavo io la macchina della mia, mettevo su i Distorted Pony, il commento più gentile era: che musica di merda, babbe, spegni. E invece no, invece immagino che i Distorted Pony non volessero fare musica di merda o semplicemente buttare fuori tutte le loro angosce, forse anche, però era una cosa abbastanza ricercata. Per esempio, l'idea di usare una batteria elettronica, è vero, l'avevano già usato i Big Black, però più o meno negli stessi anni, 86-87, quando cominciarono, effettivamente non era poi così diffusa in ambito rock. Poi arrivarono i Godflesh e le cose cambiarono. Anzi, nel secondo disco che avete appena sentito, decisero che la batteria elettronica non era più, come dire, non dava più quel senso di straniamento, alienazione, perché ormai era diventata troppo comune. E inoltre, più prosaicamente, visto che non erano i Ministry o i Nine Inch Nails che potevano permettersi impianti della Madonna, ma suonavano in locali di terzo ordine, praticamente la batteria elettronica non era mai amplificata a sufficienza e quindi quasi non la sentivano. this massive like pummel of sound and just like being amazed. Ma perché avete scelto Steve Albini a produrvi i vostri due lavori, Punishment Room e Instant Winner? Beh, è sempre stato insistente Steve Albini, ed è vero che non è un produttore, è un ingegnere che può offrire il suo lavoro in certi casi, ma non ha mai in realtà prodotto nulla. Penso che eravamo veramente un po' spaventati all'idea di lavorare con lui. Ovviamente eravamo dei grandi fan e come Distorted Pony eravamo in una fase che eravamo veramente molto influenzati dai Big Black, ma è più importante che lui fece comunque realmente un grandissimo lavoro. Nessuno sa fare le batterie, il suono della batteria come lui. Ma lo sai, avevamo tante storie su di lui e sulla sua strana natura e sulle sue prese di posizione opinabili, che penso che ci si aspettava che si mettesse a ridere. Noi ci aspettavamo che si mettesse a ridere davanti a noi per quello che avevamo fatto, che stavamo suonando, ma in realtà no, lo contattammo e fu veramente un grande. Spero che dicendo ciò di rovinare il mito che lo circonda. Ma venne a Los Angeles, stava nel nostro appartamento veramente schifoso, puzzolente, infestato, dormì sul nostro divano, ci cucinò addirittura e registrò un gran disco nel nostro soggiorno. Mi ricordo che dovetti prendere un paio di sorsi di whisky prima di cominciare la registrazione, perché la leggenda che lo permeava aumentava talmente le aspettative su di lui e che credevo che mi dicesse: ma cos'è sta merda? Ma invece no, è sempre stata una grande esperienza lavorare con lui ed è veramente una gran persona. Allo stesso modo, noi non volevamo semplicemente sfruttare il suo status di celebrità indie rock, ma semplicemente volevamo mettere il suo modo di lavorare sulla nostra musica. We'll be right back. door opened. I did what I usually do. I slept with the lights on. Never do. I got the fuck out. Sempre su Radio Città del Capo 94.7 96.250 ad ascoltare Distorted Pony da Los Angeles, appunto. È un gruppo che secondo me avrebbe avuto, cioè sarebbe stato bello che avesse avuto anche successo in Europa, in Italia. Dal vivo è davvero difficile, forse non sono mai venuti in Italia. È un gruppo che comunque fanno riferimento sicuramente all'industria inglese, però con quella dinamica tutta americana, insomma, quasi metal, insomma. Giusto, quei matti Battle Surfers potevano produrgli un secondo disco. Infatti il secondo disco uscì su Trance Syndicate, la Bomb, la Trance, tutte etichette che... Non, la Bomb è ancora in piedi, la Trance non sono sicuro. Comunque, la Bomb da 43 anni produce dischi di musica alternativa, underground, e loro sono... Se devo pensare a un gruppo underground, col senso di purezza e di innocenza, perché poi alla fine, come dire, il non volere avere successo in un mondo come... immagino fosse quella Los Angeles di inizio 90, se penso a Hollywood, all'hip hop che abbiamo programmato varie volte, insomma non è che il rapper medio andasse tanto per il sottile, riciclava i soldi che aveva per fare soldi, se controllate il conto in banca, diffusissimo, facile farlo, di Dr. Dre è un multimilionario in dollari. Quindi possiamo dire che se avessero avuto un'etichetta grossa magari avrebbero fatto anche successo in Europa, quindi è mancato il lancio forse, bastava un'etichetta un po' più grossa magari. Oppure è mancata proprio l'attitudine. Longer. 22-25 minuti primi, bontà nostra, siamo alla fine per questa puntata di This is Not an Exit, 6 giugno 2017, siamo qua dal vivo dagli studi di Radio Città del Capo. Ebbene sì, spero vi siano piaciuti, speriamo di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo e stimolante. Beh, buonanotte a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 21. Sì, buonasera, buonanotte e a risentirci. Una buonasera da Sara Milanese, questa è l'ultima edizione di oggi del GR di Popolare Network. Lo spazio